E siamo rientrati in diretta, ormai abbiamo passato da poco l'una di notte, il flusso ipnotico mi ha ipnotizzato anche a me, infatti stavo per scordarmi di entrare in voce, mi ero lasciato andare completamente al flusso sonoro del grande Orhan Ambarci, questo mix piuttosto interessante, abbastanza anche anomalo, tra una base tecno ossessiva che continua per tutta la durata del brano e questi synth che si intersecano anche a delle parti che sono state evidentemente anche campionate da Ambarci da qualche composizione di musica contemporanea, cioè appunto una techno con la musica contemporanea, dunque estremamente avanzata anche come idea quella del bravo e sempre sorprendente Orhan Ambarci. E ormai ci stiamo avviando verso la fine della trasmissione e non potevamo chiudere che con un autore, uno delle diciamo scoperte di questi ultimi mesi nell'ambito di 451 intersezioni, questo giovane autore americano di musica elettronica ambientale, ma non solo, perché si muove anche nella musica dronica, ma anche con forti riferimenti anche al folk e al country, inserite dentro ovviamente un contesto ambientale ed elettronico. L'utilizzo dei synth, in questo caso virtuali, creati, manipolati e modificate, oltre che creati totalmente da Benoit Poulard, appunto autore che è passato un paio di volte già a 451 intersezioni, una scoperta nuova di questa stagione, e abbiamo questa sera selezionato per chiudere questa puntata di Syntopia, anche se poi sicuramente qualche altra parte di continuazione la creeremo nel corso forse anche di questa stessa stagione radiofonica, una seconda parte legata appunto ai synth in una dimensione degli anni 0, degli anni 10. Abbiamo scelto di Benoit Poulard appunto l'ultimo album uscito alla fine del 2015, dunque piuttosto recente, Stanza Chu. L'ha chiamata proprio stanza, dunque un chiaro riferimento a un termine italiano con il 2, anche perché precedentemente, qualche mese prima, sempre nel 2015, era uscito Stanza 1, dunque One se vogliamo giocare tra italiano e inglese. L'album è uscito per la Noton Label e un album sicuramente che sta dentro il percorso Benoit Poulard, anche se diciamo il mio preferito è un altro, l'abbiamo già sentito in passato all'interno di una vecchia puntata di qualche tempo fa di 451 intersezioni. Chiuderemo dunque con Stanza 2 di Benoit Poulard e chiaramente vi ricordo sempre di rimanere in ascolto di 451 del nostro network. Se non potete ascoltarla in diretta o non volete perché è troppo tardi o non vi va proprio di stare attaccate alla radio, ma vi va di riascoltare anche qualche parte, potete andare sempre sul nostro blog, no blog, 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete le vecchie puntate, le vecchie trasmissioni, potete ascoltarle, addirittura scaricarle chiaramente gratuitamente in streaming, oltre alle varie notizie legate alle puntate, dunque anche inserti in alcuni casi, parti di video o parti di particolare interesse rispetto alle tematiche che abbiamo trattato nelle vecchie trasmissioni. E vi ricordo sempre ovviamente l'appuntamento del mercoledì di 451 frammenti sonori condotto da Max Macchia, sempre dalle 23 all'una circa, e noi ci ritroveremo invece come 451 intersezioni, ve lo dico già da ora per i tantissimi ascoltatori che stanno facendo diciamo la fila qua sotto la radio per poter conoscere gli autori e il conduttore della trasmissione, cioè io stesso, ovviamente scherzo, vi ricordo appunto che anzi ve lo dico più che vi ricordo che giovedì prossimo non sarò in onda, 451 intersezioni non sarà in onda dalla mezzanotte all'una e mezza circa, ritorneremo dunque non la prossima settimana ma la settimana successiva, e dunque andiamo a parlare credo intorno al 12 di maggio, ma non sono sicuro, sì è il 12 di maggio, adesso ho verificato, dunque il 12 di maggio rientreremo, il 5 maggio non saremo in radio, dunque ve lo dico già da adesso. E a questo punto vi lascio ovviamente con la chiusura della puntata con Benoit Poulard e Stanza Chu, e ovviamente con successivamente la fine della trasmissione con il nastrone e il tormentone di Radio Città Fujiko Notturno, e dunque vi aspetto per giovedì 12 maggio. Una buona notte da Alisio Scarpa e buon ascolto con Benoit Poulard.